versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon giovedì 23 di luglio. E questa puntata non è in diretta perché è una puntata dedicata a un ascoltatore che ha scritto proponendo la sua storia alla versione di Oscar @radio24.it, però siccome sta dall'altra parte del mondo, per realizzarla abbiamo dovuto mettere d'accordo i fusi orari, per così dire, perché l'ascoltatore che ora vi presento sta in Nuova Zelanda e tra l'altro ne approfitto in questa occasione anche per ringraziare tutti coloro che mi scrivono, ci scrivono, testimoniando che ascoltano in podcast la versione di Oscar e Radio 24, tra altre anche radio e trasmissioni, perché è per loro, stando nel mondo, da italiani nel mondo, un modo per tenere il contatto con il nostro paese, il suo dibattito pubblico e così via. Abbiamo ascoltatori che mi hanno scritto, a cui ho risposto, dal Sud America, dal Centro America, dall'America settentrionale, dall'Australia, quindi è un grazie a tutti loro. Io a tutti loro, spero, ma credo di sì, ho risposto come a tanti di voi. In questo caso abbiamo scelto questo ascoltatore perché secondo me ci fa fare una riflessione su come gli capita di lì, stando in Nuova Zelanda, di paragonare quello che ha lasciato qui in Italia, il perché ha lasciato per decidere di trasferirsi a lavorare lì da una parte, e poi perché ha due storie concrete che consentono di capire come poi ai figli dell'Italia nel mondo appare in concreto l'Italia quando hanno bisogno di continuare ad avere a che fare con l'Italia, sia quella pubblica, come ascolterete, sia quella privata. E mi è sembrato giusto fare una puntata con un ascoltatore di questo tipo, anche perché noi con domani chiudiamo il palinsesto autunnale estivo, e quindi poi domani sarà per la versione di Oscar l'ultima puntata, perché dalla settimana successiva poi comincia il palinsesto estivo e l'appuntamento con me con la versione di Oscar ricomincia poi il lunedì 31 di agosto, naturalmente poi per tutto l'anno prossimo, fino all'estate dell'anno prossimo. Però in questa penultima puntata mi sono detto, sabato prossimo c'è ancora I Conti della Belva, che poi riprende a settembre anche lui. Però un ascoltatore tra i tanti che ci hanno scritto dall'estero mi è sembrato fondamentale. E allora innanzitutto ve lo presento, si chiama Gabriele Frigerio Porta, e buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Gabriele. Buon pomeriggio e grazie a voi tutti. Ma dal cognome direi che sei lombardo, no? Frigerio, un cognome lombardo? Sì, Canturino, in provincia di Como. Esattamente. Allora, cominciamo dal raccontare come mai sei in Nuova Zelanda. Ma io ero stato già in Australia 5 anni fa. L'anno scorso mi sono laureato e ho deciso di partire per l'estero. Ho pensato di ritornare più o meno in questa zona e mi ispirava tantissimo l'idea di venire in Nuova Zelanda, perché ho sempre sentito che è una bellissima terra. Lo è. Poi questa è una zona abbastanza friendly, diciamo, quindi ho deciso di venire qui con la mia ragazza e stiamo cercando di rimanere. Tu hai una laurea triennale in statistica economica e una magistrale in statistica attuariale, quindi insomma hai fatto studi tali per cui coi numeri te la cavi bene, per così dire. Ma quando hai preso questo indirizzo di studio in Italia, come pensavi di utilizzarlo poi a seguito? In realtà non ero sicurissimo, perché quando, diciamo, presentano il futuro universitario in Italia, poi non è facile capire gli sbocchi effettivi che si avranno in futuro. Poi pian piano durante la triennale ho capito che più o meno sarei andato probabilmente a lavorare in qualche azienda, a fare un lavoro analitico, sì, o qualcosa del genere. Però poi quando ho scoperto la statistica attuariale mi intrigava molto la cosa, anche perché i fondi pensione, perché mi sono sempre piaciuti. Poi in Italia è un argomento abbastanza caldo, ecco. Direi di sì, cioè in realtà la tua specializzazione di studi, diciamo, in Italia, paese che di fondo ha elementari problemi anche per un banale calcolo di interesse composto, per così dire, e questo spiega perché poi i risparmiatori si fanno aggirare molte volte e così via, dovrebbe potrebbe essere esattamente uno di quei titoli di studio che valgono molto, perché avendo noi un enorme problema di debito, virgola, e di come renderlo sostenibile rispetto a una curva demografica che è negativa da anni, quindi invecchiamento delle coorti di lavoratori, problemi di squilibrio previdenziale. L'anno scorso nel bilancio INPS ci sono stati più di 100 miliardi di contributo dalla fiscalità generale come mismatch tra i costi che deve sostenere, cioè gli assegni che deve pagare tra previdenza e assistenza, i contributi raccolti, 100 miliardi in un solo anno, quindi stiamo parlando di più di 6 punti di PIL di squilibrio nel conto economico annuale dell'INPS. E tutto, a tutto questo serve in realtà esattamente la statistica, la matematica attuariale. Però tu, cioè, malgrado presa la laurea, hai detto no, preferisco andare in Nuova Zelanda. Sì, beh, avevo, dopo diciamo 6 mesi dalla laurea, ho avuto un paio di offerte in realtà, però erano sempre stage di 6 mesi, poi forse ci vediamo, non si sa. Quindi ho detto preferisco giocarmi la carta dell'estero, ho la possibilità di farlo, il mio inglese era già abbastanza buono, ho detto ci provo. Ecco, e con la tua ragazza che cosa state provando a fare? Perché innanzitutto spieghiamo qual è la politica migratoria sui flussi rispetto al lavoro in Nuova Zelanda. Allora, diciamo che se si ha una laurea o esperienza lavorativa ci sono dei visti, che è quello che adesso stiamo cercando di fare, che si chiama Skill Migrant Visa, in particolare per lei che è laureata in biotecnologie, che è una laurea molto richiesta qua, ha un profilo molto richiesto, nel momento in cui si ha un'offerta di lavoro si ha la residenza praticamente subito. Ecco io te l'ho chiesto proprio per questo, perché in realtà Australia, Nuova Zelanda fanno parte di quel blocco di paesi avanzati, OCSE, che da anni hanno scelto una politica di immigrazione selettiva per skills, cioè non è che si vergognano di dire che c'è bisogno rispetto all'economia nazionale, si è corti di alcune specializzazioni e su quelle prioritariamente si ha aprono le maglie degli immigrati, cosa che solo a dirla in Italia si passa per razzisti e così via. Ma era un inciso per far capire come funziona quel mondo. E per il momento l'attività con cui sbarcate il lunario qual è? Ma per il momento io lavoro nell'hospitality, perché siamo qui con il Working Holiday Visa che ci permette di stare qua un anno e viaggiare o lavorare, e nel frattempo stiamo cambiando, facendo quest'altro visto, quindi per il momento nell'hospitality io sto diciamo studiando da duty manager, perché comunque come dire il modo in cui lavoro è apprezzato, ecco, il mio datore di lavoro mi sta facendo un po' salire di livello, ecco. Però diciamo non avrete trovato enormi difficoltà a trovare occupazione? No, devo dire che il mercato è abbastanza buono qui, chiaro che diciamo nell'hospitality c'è abbastanza concorrenza, nel nostro campo in realtà saremmo anche figure interessanti, il problema è cambiare il visto, ecco. C'è questo piccolo, diciamo un gatto che si morde la coda, ecco. Nel momento in cui riesci a tenere l'offerta di lavoro o il visto sei a cavallo, ecco. Esattamente. E questo, che finestra temporale ha questa possibilità, se riuscite a esercitarla? Diciamo il mio visto attuale scade a novembre, però sto aspettando che mi potrebbero attivare il visto da qui a 6 mesi, quello lavorativo, quindi insomma dovreste riuscire a farcela a quel punto. Allora cominciamo con la prima storia che ci hai segnalato, di che cosa avviene quando per delle pratiche che dovevi espletare, quindi di documenti che dovevi chiedere in Italia, vai al consolato della Nuova Zelanda per capire come si fa, è così? Sì, sono andato sul sito, sono andato a controllare qual è la procedura, sul sito c'è proprio scritto che per richiedere il certificato generale penale e dei carichi pendenti che serve per il visto, questi devono essere richiesti direttamente a cura dell'interessato alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, nel nostro caso quello di Como, e ho scaricato i documenti che sono perché questa cosa in italiano, ti serviva per il visto lavorativo, appunto. Esattamente, sì. Sì. Ecco, e allora quindi si è andato a vedere sul sito del consolato. Il sito del consolato era preciso, completo, cioè c'era scritto come fare per quello di cui avevi bisogno il consolato italiano? Sì, sì, è scritto piuttosto precisamente, sì, sì, assolutamente. E quindi ho seguito le istruzioni, ho legato tutti i documenti, ho legato anche l'assegno internazionale che era richiesto, perché io mi faccio carico chiaramente di tutto quello che viene richiesto, quindi 16 euro a certificato, 7 euro se il certificato è richiesto d'urgenza, ci sono pure i costi per la spedizione indietro dall'Italia alla Nuova Zelanda, si sono sbagliati perché non so se erano un po' vecchi forse, comunque insomma allego tutto quanto, pure la busta per farla rispedire. E quando arriva in Italia questo documento viene praticamente rispedito indietro, in quanto al tribunale non conoscono la procedura e quindi sarebbe stato è stato detto a mio padre di chiamare il dirigente per sapere come sarebbe dovuta andare avanti la procedura. Il dirigente presso la procura del tribunale di Como. E a quel punto il dirigente presso la procura del tribunale di Como, a tuo padre cosa dice rispetto a quello che tu avevi nel dettaglio trovato come indicazione delle procedure da seguire sul sito del consolato italiano a Nuova Zelanda, quindi comunque in un altro sito ufficiale della Repubblica Italiana? Che cosa gli dicono a tuo padre? A mio padre praticamente si è arreso subito la cosa, praticamente gli hanno detto di fare la procedura normale che si fa in Italia, quindi con la delega che per fortuna avevo già spedito io, ha pagato la marca da bollo, anche se c'era il mio assegno che copriva il costo, ma evidentemente non sapevano come incassarlo, non lo so, fatto sta che ha comprato lui la marca da bollo e ha fatto la richiesta dei certificati, semplicemente questo, e poi più di tasca sua mi ha rispedito tutto qua in Nuova Zelanda. Allora la domanda a questo punto diventa: ma perché sul sito del consolato c'era scritto una cosa e poi invece alla procura del tribunale ne dicono un'altra? E a questa domanda come vi siete risposti? Presumo che siamo che se in Italia tribunali o istituti diversi, pur nella pubblica amministrazione, non si parlano tra di loro, noi che possiamo fare? No, voi naturalmente, voglio dire, la vostra fortuna era quella di avere un padre in vita e ancora autonomo, in salute e tale da potersene occupare direttamente. Ovviamente per chi non fosse in queste condizioni la questione diventa naturalmente un po' complicata. Pensate a qualcuno che ha bisogno con urgenza di quei documenti per un visto di lavoro. Infatti, e a quel punto non sa come fa, deve prendere l'aereo e andare in qualche caso. Infatti meno male che non ho spedito direttamente al tribunale la cosa, cioè, ho usato mio padre come tramite, perché sennò mi avrebbero rispedito tutto indietro, forse magari gli assegni si sarebbero persi. Oh, ma per curiosità, assegni, tra l'altro, curiosità, a quel punto al consolato vi siete rifatti vivi col consolato dicendo: ma scusate, ma perché qui c'è scritto di fare così quando alla procura ci hanno detto di fare cos'ha? No. Non ci ho neanche provato, anche perché io sto ancora aspettando una risposta del consolato su come rinnovare la patente. Mi hanno mandato una mail un mese fa e mi hanno risposto con una mail precompilata che se mi risponderanno nei tempi previsti, a meno che non ci sia già la risposta sul sito. Quindi io faccio riflettere i nostri ascoltatori che questo primo pezzo della testimonianza di Gabriele Frigerio della Nuova Zelanda è relativo alla branca della pubblica amministrazione italiana. Per i numeri vi invito a consultare sul sito della voce.info gli scritti di Roberto Perotti, oggi subcommissario insieme a Gutgel alla Spending Review. Il professor Roberto Perotti ha fatto un'analisi comparata delle retribuzioni del personale diplomatico degli affari esteri della Farnesina nelle sedi nazionali e distaccate rispetto al personale addetto allo stesso servizio in tutti i paesi europei. Non ci si può sbagliare, i nostri sono più pagati per multipli rispetto ai colleghi tedeschi e britannici. Allora, io non voglio fare come al solito il demagogo, ma come mi accusano di fare quelli del settore pubblico, dicono che io me la prendo sempre con loro, ma quei numeri parlano chiaro, multipli di costo e retribuzioni per avere, per gli italiani all'estero che si rivolgono a quel punto alle strutture, alle articolazioni periferiche del nostro Ministero degli Affari Esteri, queste belle sorprese. Naturalmente la colpa non è solo loro, sarà anche delle procure presso i tribunali che non si parlano con il resto della pubblica amministrazione. Resta il fatto che se siete un italiano all'estero vi trovate in queste condizioni. Adesso abbiamo un minuto di informazione, come sapete, sulle strade, sulla circolazione stradale. Torniamo tra un minuto con il nostro ascoltatore dalla Nuova Zelanda. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in questo giovedì 23 di luglio dopo l'informazione stradale, alla versione di Oscar. Siamo con un ascoltatore che ci ha scritto la Nuova Zelanda, Gabriele Frigerio Porta, fresco di laurea magistrale in statistica attuariale dopo la triennale statistica economica, e a questo punto però dopo la laurea decide insieme alla fidanzata di andare in Nuova Zelanda invece che aspettare i tempi di un mercato del lavoro fatto di stage italiani, sia pur col Jobs Act, sia pur con la ripresa, eccetera eccetera, e ci ha raccontato questo primo pezzo di esperienza su cosa vuol dire in questo paese dove non hanno avuto particolari problemi a trovare nuova occupazione, chiedendo a quel punto alle strutture della Repubblica Italiana i documenti necessari per il cambio del visto lavorativo. Quello che dice il consolato rispetto a quello che dice la procura del Tribunale di Como si svelano due cose diverse, e naturalmente viva la presenza del papà in Italia, che a quel punto risolve di persona e pagando direttamente invece che gli assegni già mandati e così via. È questa fotografia del mondo pubblico. Però c'è un secondo pezzo di storia che chiedo Gabriele di raccontarvi, che riguarda anche il mondo privato, perché poi l'Italia non è che funziona male nel pubblico e poi il resto è una meraviglia, perché naturalmente Gabriele mentre andavano avanti con gli studi, arrivava la laurea eccetera, mandava curriculum alle aziende italiane e magari aziende di credito, aziende finanziarie, visto che la sua specializzazione lo porta esattamente in quella direzione come aspettativa di occupazione. E che cosa succede su questo, Gabriele? Succede che già fin dal momento della laurea ho cominciato a spedire curriculum a destra e a manca, e però come succede spesso nel mercato italiano è raro ricevere una risposta. Se riceve una risposta tendenzialmente positiva, ecco perché no, aspetta, approfondiamo però e spieghiamo a chi è in ascolto. Quando dici succede raramente nel mercato italiano, perché dici raramente nel mercato italiano? Perché altrove non è così. Perché no, cioè, già un mese prima della partenza io avevo cominciato a spedire curriculum in Nuova Zelanda e la percentuale di risposta anche solo all'aver inviato il curriculum era superiore al 90%. Superiore al 90% per sola accusata ricevuta, ecco, per essere chiari. Sì, infatti. Chissà come mai le imprese subito italiane invece hanno una prassi completamente diversa. Non si sa, perché io qua ricevo, a parte che già nell'offerta c'è scritto se riceverò risposta e entro quando, e poi la risposta arriva, tra l'altro vabbè, sono mail prescritte ma almeno personalizzate col nome, che è una piccola cosa, però insomma, piuttosto che non ricevere mai una risposta è meglio, ecco. Avevo spedito comunque un po' di curriculum già dall'Italia. E venerdì della settimana scorsa mi è arrivata una risposta da una società italiana che in questo caso mi rifiutava cioè, la posizione era già stata occupata da qualcun altro, quindi rifiutavano la mia candidatura. Piccolo problema, io la candidatura l'avevo inviata l'11 maggio del 2014, quindi un anno e due mesi fa. Meno male che mi sono attrezzato diversamente nel frattempo. E naturalmente adesso noi qua, per riservatezza, naturalmente io ho fatto l'accertamento, so di che società si fa, non stiamo esattamente parlando di una micro società, vero Gabriele? Ecco, diciamo solo questo, non stiamo esattamente parlando di una piccola società, ecco. no, anzi, stiamo parlando del top dei top, seconda posizione per attivi, ma prima per internazionalizzazione nel suo ranking di imprese creditizie in Italia. Ecco, stiamo parlando quindi di un'impresa che proprio per la sua elevatissima presenza sui mercati internazionali forse dovrebbe avere degli standard un po' meno italiani, ecco, e invece la risposta ti arriva 14 mesi dopo praticamente. Eh sì, infatti, tra l'altro hanno anche, penso, esternalizzato la gestione dell'HR, quindi neanche direttamente da loro è arrivata la risposta. E comunque sì, ecco, è arrivata 14 mesi dopo, buona sapersi. Buona sapersi, diciamo, pensa nel frattempo se stavi per 14 mesi ad aspettare. Allora, naturalmente voi direte, cari ascoltatori, giovane manager, ma guarda che queste sono cose notissime. Sì, sono cose notissime, ma la differenza è che in questo caso c'è una scelta che viene fatta rapidissimamente, dando per scontato che questa è l'Italia, di andare altrove, magari anche mettendo a rischio gli anni di studio, di passione, di sacrifici fatti per conquistare un titolo di studio che è molto specialistico, per così dire. Ma per così dire, tanto l'Italia, proprio perché è così, altrove, secondo me, trovo di meglio più rapidamente e sul mio reddito e la mia qualità della vita avrò delle risposte migliori. C'è qualcuno che vi ha frenato quando avete preso la scelta di dire andiamo in Nuova Zelanda? Ma direi di no. Di no. Tutto sommato sì, anche i genitori chiaramente non erano, diciamo, felicissimi. Però nessuno che vi abbia detto, ma no, c'è il Jobs Act, c'è la ripresa, tagliano le tasse, l'Italia cambia. No. Direi proprio di no. Ecco, chissà come mai. E sì, naturalmente io sottolineo che voi siete partiti da Como, cioè non siete partiti dalle parti d'Italia dove il PIL perso non è il 9%, la media nazionale, Como è più basso ovviamente, ma per esempio il 15% che in media è il PIL perso in Sicilia. Voi siete partiti da una parte d'Italia che è la più, tra virgolette, bavarese che ci sia in tutta Italia, la più tedesca di tutta Italia, eppure ciò malgrado questo è il ragionamento che avete fatto. Vi siete dati un, per così dire, una finestra temporale entro la quale fate il bilancio di che cosa state costruendo in Nuova Zelanda per decidere come e se alzare le tende o andare altrove, oppure no? O siete molto fiduciosi comunque, quindi non avete preordinato una scaletta temporale di bilancio? Ma diciamo che la scaletta è, diciamo, legata alle tempistiche dei nostri visti. Finché siamo qua proviamo a restare qua, ci piace questo posto, ecco, quindi stiamo cercando di fare il possibile per rimanere. È chiaro che all'inizio abbiamo scontato un po' il primo periodo in cui non sapevamo tante cose, anche relative al lavoro per Nuova Zelanda, eccetera, però insomma nei prossimi 3-6 mesi dovremmo sapere più o meno cosa succederà, ecco. Noi siamo fiduciosi comunque. Voi siete fiduciosi e l'approccio con la parte pubblica e privata paragonata all'Italia è stata ha adempiuto l'aspettativa di un mondo in cui le cose funzionano, o anche lì c'è qualcosa che vi ha colpito perché magari funziona meno bene di quanto uno si aspetti? Le perche esistono ovunque, però devo dire che qua c'è un'efficacia nettamente superiore, anche solo per dire l'IRD number, che è il nostro codice fiscale, diciamo. Si va in posta, si consegnano due documenti d'identità, in due settimane ce l'hai a casa e ti vale anche come conferma di dove abiti, ecco, dal tuo domicilio. Quindi voglio dire, anche abbastanza veloce, mi pare che si cerchi sempre di trovare una soluzione ai problemi, ecco. Mi dice nella lettera che anche dal punto di vista fiscale e contributivo c'è una certa differenza, cioè se uno è dipendente di una società, di un'azienda, eccetera eccetera, e il datore, insomma, fa il furbo, con una telefonata arriva l'ispezione immediata. Sì, me l'hanno anche confermato da vari posti di lavoro che è così. Nel momento in cui c'è un dubbio parte subito il controllo, assolutamente. E naturalmente, questo lo dico anche per rassicurare i nostri ascoltatori, a me non piace la Nuova Zelanda solo perché, come l'Australia, quando spesa e tasse erano troppo cresciute, c'è stata una convergenza della politica nazionale, laburisti e conservatori, e le hanno di molto tagliate modificando il welfare. Il problema è che in quel paese, però, l'altro aspetto della medaglia è che l'evasione fiscale e contributiva sono reati gravissimi, in cambio del fatto che la politica ha trovato una convergenza per migliorare l'efficienza abbassando la spesa e abbassando le tasse e crescendo molto di più. Qual è il tasso di crescita del PIL quest'anno atteso in Nuova Zelanda? Adesso non me lo ricordo. Impreparato. Beh, diciamo che si moltiplicherà quello che attendiamo noi per l'Italia. Le tese sono per una moltiplicazione che sta tra 3 e 3,5 volte quello italiano, sempre che quello italiano sia 0,7-0,8, come noi ci aspettiamo. Beh, vediamo. Intanto io ringrazio Gabriele Figero Porta e abbraccio la sua fidanzata, che non abbiamo fatto neanche il nome, ma spero che questa Daniela. Riflessione sul perché Daniela e Gabriele sono andati lì e hanno avuto la riconferma che non sbagliavano faccia riflettere noi tutti. Grazie e continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani al 16:30.